Noi de Borgada. Son fanello e so de pietralata, 13 anni con qualche mese in più, e da quando la scuola m'ha cacciato, con la vita mi trovo a tu per tu. C'è mio padre che non mi dice niente, e mia madre poraccia che la fa. Siamo parte di tanta buona gente che da sempre si è lasciata andare. Respirando l'aria de Borgata, qualche vizio l'ho imparato già, con le violenze della strada me la faccio e spazio e libertà. Dentro casa regna lo squallore, c'è sto qua ne pronto da magna, che mi vado a casa del signore, mi procura andando a lavorare. I ragazzi dalla vita bella, alla tre guardie si mettono a giocare. Noi de Borgata se ci dice zilla, le guardie vere ci vengono a cercare. C'ho l'amico all'aristi dei cappelli, ce l'hanno chiuso perché hanno a rubare. E la frutta zompanno i cancelli, de una grossa e vasta proprietà. Respirano staria avvelenata, sempre dura il prezzo da pagare. Tante me violenze della strada, stanno dentro a piaglia libertà. Il maestro, vai a lavorare, l'istruzione la non fa per te, quel giudizio me sta a aspettare, che la legge se beva puro a me. Miracolata nell'economia, l'Italia nostra è ricca a profusione, te fanno intenne costa l'inania, giornali, radio e televisione. Noi de Borgata non credemo a niente, la vita amara continuiamo a fare, tanto benessere sarà per altra gente, l'Italia ricca non c'è poco iona. Qualcheduno ci viene a predicare l'uguaglianza e la fraternità, a una fede ci vogliono convertire preti e bizzoche e figli di papà. Qui si lotta per la sopravvivenza, le parole non possono bastare, e manco la divina provvidenza, buoni buoni potremo st'aspettare. Questurini, giudici, avvocati, pilastro primo desta società, siete nemici nostri più accaniti, perseguitate miseria e povertà. Cani fedeli alle istituzioni, per ogni nostre ve stanno a fascia là. Ve siete fatte grosse posizioni, ma la Borgata non se lo scorderà. Se scoppiasse la rabbia qui in Borgata, che ognuno si porta dentro al cor, gente bene, onesta, raffinata, la vostra vita non avrà nessun valore. La giustizia, quella popolana, il giorno viene che ve raggiungerà. La Borgata allora si risana, col lavoro nella libertà. La Borgata allora si risana, col lavoro nella libertà.